Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Altro appuntamento con l'Adico, Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato a Carlo Garofolini. Sì, ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, questa volta parliamo di una cosa che tocca tutte le nostre tasche, perché ahimè abbiamo ogni anno delle cose che aumentano di prezzo, ma qui insomma mi pare che il prezzo sia salito molto. Parliamo dell'acqua. Sì Francesco, parliamo dell'acqua che scorre nei rubinetti e commentiamo quelli che sono dei dati, quali l'aumento che quell'acqua ha avuto nella bolletta e come questi aumenti sono andati a incidere in maniera pesante nelle tasche degli italiani negli ultimi 6 anni, in virtù anche a quello che è una spesa media che una famiglia tipo di 3 persone all'anno consuma, che è stata stimata in circa 192 metri cubi di acqua, e calcolando come importo medio 310 euro all'anno. E scopriamo come negli ultimi 6 anni ci sono città nel nostro paese in cui la spesa dell'acqua è aumentata addirittura oltre del 100% rispetto ad altre località, chiaramente evidenziando le zone critiche del sud rispetto a quelle del nord, ma individuando come nelle località del centro le zone a maggior aumento rispetto agli ultimi 6 anni, e rilevando come anche nel nord, anche nel Veneto comunque c'è stato un aumento medio di circa 25% nella bolletta negli ultimi 6 anni. Ma come mai questa se ne consuma di più, ce n'è di meno, ma perché ci devono essere questi aumenti? Allora, se da un lato purtroppo i servizi idrici cercano di giustificare questi aumenti, questi rintocchi all'insù per uso domestico, tenendo conto quelli che sono i servizi che garantiscono, che devono garantire, come l'acquedotto, il canone di fognatura, il canone di depurazione, le quote fisse, e poi sappiamo che dovrebbero anche manutenzionare quelli che sono gli scoli, cosa che insomma tutto da ridire anche qua, dall'altra scopriamo come una buona parte di quest'acqua che scorre nelle tubazioni veramente viene persa. E addirittura il dato medio a livello nazionale è quello che il 33% dell'acqua che scorre appunto nelle tubazioni viene dispersa per effetto di delle perdite di un sistema ormai che è obsoleto e quindi... E che fa acqua da tutte le parti. Bravissimo, che fa acqua da tutte le parti, per cui sai, il 33% veramente è un dato molto molto significativo. Qui la speranza è di rimettersi in gioco e rimettere a posto tutto quello che è il sistema idrico, dovrebbe essere. Per capire bene l'entità del problema è che pensiamo che se al sud il 43% dell'acqua viene persa lungo il tragitto, nel centro il 33% e anche qui nel nord siamo circa al 26%. Quindi possiamo vedere che insomma 26% vuol dire sostanzialmente un quarto. Poi per quanto riguarda le tariffe scopriamo che insomma ci sono delle tariffe che oltre ad essere aumentate a dismisura negli ultimi anni, parliamo di aumenti appunto consistenti, perché solamente rispetto all'anno precedente c'è un aumento di circa 6,9% nelle maggiori 80 città italiane, e comunque abbiamo un aumento medio veramente quasi addirittura del 164% in certe città come la Calabria, ma anche a nord abbiamo degli aumenti molto significativi nell'ordine sempre di 20-30 punti percentuali. Scopriamo comunque anche come la situazione appunto sia critica per effetto appunto di una rete che certamente ha bisogno, necessita di seri interventi di rinnovamento proprio per evitare di disperdere quella che insomma è un elemento molto importante e vitale per il nostro paese, ma per tutto il pianeta. Si parla sempre di grandi opere e questa probabilmente potrebbe essere una grande opera che darebbe lavoro e comunque alla fine della fiera ci permetterebbe di ritornare a risparmiare e di non sprecare l'acqua, che è un bene preziosissimo. Chissà che qualche amministratore insomma inizi a vedere anche questa possibilità. Sì, certamente sarebbe un bellissimo augurio. E snocciolando ancora i dati, ecco, stavo vedendo come appunto solamente nel nord addirittura l'aumento delle bollette è stato del 32% dal 2007, quindi certamente sarebbero interventi molto importanti che forse permetterebbero veramente di risparmiare moltissimo, perché poi abbiamo parlato di un costo medio a famiglia di 310 euro all'anno, ma poi ci sono città dove veramente si arriva a pagare 470 euro all'anno per effetto appunto di tariffe veramente che sono molto molto più care rispetto ad altre. Quindi sai, anche qui cercando di ottimizzare quello che è una rete che necessita veramente di essere manutenzionata, si potrebbe veramente risparmiare moltissimo. Grazie a Carlo Garofolini, l'appuntamento con l'Adico è per la settimana prossima. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it. Spot. Quest'estate la scorta vacanze è scontata del 30%. Sì, grande convenienza nei supermercati Ali e centri Aliper. Per i possessori di carta fedeltà, sconto 30% su tantissimi prodotti fino al 21 agosto. Questa è convenienza. La qualità di sempre è scontata del 30%. Ali Aliper migliora la vita. Blue Time. Per un buon sottofondo serale, per conoscere artisti di qualità, per stare in compagnia della musica, da lunedì a venerdì alle 21 su Blu Radio Veneto.